Il re del re è tornato in pista, il re del re, in una notte dipinta, il re del re. Il re del re l'hanno messo incinta, il re del re, con dei marchi ingegni fatti male, coi fili e gli ingranaggi di una Volkswagen. Il re del re ha montato l'impianto, il re del re viaggia in treno ma in bagno, il re del re. Il re del re quando è l'ultima spiaggia vede la Madonna che balla sotto casa. Il re del re l'hanno preso a schiaffi, il re del re, due tipe di frasassi, il re del re. Il re del re sembra Paul McCartney, il re del re, o il principe Giovanni, il re del re. La notte nelle tende, la polvere che prende d'incanto, vede San Francesco che cerca lo stregato. Il re del re sembra un pollo arrosto, il re del re c'ha il babbo poliziotto, il re del re. Qual è il suo cane? È quel volpino che mangia gomme americane tutto il giorno. Il re del re, il re del re, il re del re, quanto porta iella, il re del re, ti si ficca in testa, il re del re. Il re del re quando mangia i funghetti vede Gesù Cristo che vende i braccialetti. Il re del re da Salerno a Foggia, il re del re se lo tocchi scoppia, il re del re. Il re del re è cascato nell'Arno, il re del re l'ha inventato Leonardo, il re del re. La notte nelle tende, la polvere che prende fa bingo, del padre eterno che suona una Gibson. La la la la.